Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di storia, in particolare di una pagina della quale molto si discute e si discuterà ancora nei prossimi mesi, e cioè il Risorgimento e l'Unità d'Italia. E lo facciamo partendo da un'occasione artistica, cioè la mostra che è in corso a Roma, al Palazzo del Quirinale, alle Scuderie del Quirinale, 1861, i pittori del Risorgimento, curata da Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, aperta fino al 16 gennaio 2011 con il catalogo pubblicato da Schirà. E allora in questa occasione vi segnalo alcuni titoli risorgimentali, a partire da alcuni che si riferiscono al più grande protagonista del Risorgimento, e cioè a Camillo Benso, conte di Cavour, di cui quest'anno tra l'altro ricordiamo il bicentenario della nascita. Vi segnalo innanzitutto i Discorsi per Roma Capitale dello stesso Cavour, pubblicato da Donzelli, 110 pagine, 15 euro, ed è introdotto da un saggio di Pietro Scoppola. I discorsi di Cavour sul tema sono tre e vennero pronunciati tutti nel 1861, sono quelli famosi nei quali Cavour sviluppò la formula celebre del libera chiesa, il libero stato, di cui Scoppola illustra bene le origini e il significato. Ma sentiamo come spiegò Cavour questa formula nel discorso del 9 aprile 1861. Non vi dirò come io intenda la soluzione della questione romana. Vi dirò bensì che le speranze da me manifestate in altra occasione non sono scemate. Certo, non posso dirvi, o signori, che in così breve spazio di tempo le opinioni poste avanti la prima volta a nome del governo abbiano fatto molte conquiste, ma però hanno fatto progressi. Il principio solennemente proclamato della separazione della Chiesa dallo Stato, della libertà della Chiesa, è stato accolto, e nel Paese e fuori molto favorevolmente da tutte le frazioni del Partito Liberale, anche da quelli che si preoccupano specialmente degli interessi conservatori. Questo è un gran fatto, ma ciò non basta a giungere a una soluzione. Bisognerà non solo renderci favorevoli le opinioni liberali, ma è forza altresì che la parte moderata e illuminata della società cattolica riconosca la grande verità di questo principio, accetti il grande principio della libertà. E qui, o signori, si incontrano molte difficoltà, gravi ostacoli. Ma ciò deve forse destare meraviglia? Deve forse sfiduciarci? Un prezioso saggio su Cavour è quello del suo maggiore studioso, Rosario Romeo, che dedicò una monumentale biografia al conte e che sintetizza i suoi studi sul conte in un'intervista che aveva concesso nel 1985 a Guido Pescosolido. E questa intervista adesso ritorna, pubblicata dalle Lettere, si intitola Cavour, il suo e il nostro tempo, 46 pagine, 8 euro. E qui non si parla di questione romana, ma del ruolo che Cavour ebbe nella formazione dell'Italia Unita, di cui, dice Romeo, il politico torinese fu l'autentico artefice. Dice infatti Romeo che, al di là delle notevolissime doti politico-diplomatiche di Cavour, sulle quali si potrebbe sempre opinare, il progetto politico-istituzionale realizzato con la formazione dello Stato unitario fu più vicino a quello ideato da Cavour che a quello di qualunque altra forza che abbia partecipato al Risorgimento. L'altra anima del Risorgimento è certamente Giuseppe Garibaldi, e della sua impresa più famosa, la Spedizione dei Mille, torna una delle testimonianze più significative, e cioè il diario della Spedizione dei Mille scritto da Ippolito Nievo, il grande scrittore che morì giovanissimo, appena trentenne, quando rientrava per l'appunto da Palermo a Napoli nel naufragio della nave che lo stava trasportando. Il libro è pubblicato da Mursia, 102 pagine, 9 euro. Qui troviamo nel volume il diario vero e proprio, che comprende il periodo fra il 5 e il 28 maggio del 1860, il resoconto amministrativo della prima spedizione in Sicilia, che testimonia il lavoro che Nievo fu costretto a fare. Infatti lo scrittore rimase in Sicilia come viceintendente generale, come amministratore, insomma, alle prese con le richieste di aiuti, di provvidenze, con gli appalti, con gli acquisti. Un incarico difficile che gli valse anche accuse di vario genere, alle quali appunto Nievo risponde con questo scritto. Poi c'è una lunga lettera ancora su questa argomento, scritto al direttore della Perseveranza, e infine diverse lettere scritte al fratello, alla cugina e alla madre. In particolare a questa manifesta la sua sofferenza proprio per le incombenze amministrative alle quali era stata chiamata, scrive alla mamma: come vedi fanno sì gran conto delle mie qualità politico-amministrative che vogliono tenermi inchiodato qui ad ogni costo, e sì ti assicuro che se c'è sulla terra intendente idrofobo che comunichi agli altri l'idrofobia, sono io certamente quello. Vi sono giornate nelle quali la mia vita è una serie serie non interrotta di gridate e di strapazzate dalla mattina alla sera. Lo Stato trovò in me un Cerbero adattissimo per il suo tesoro. Gli è vero che, se mi mancano altre doti, questa è per il momento importantissima. Un altro diario, sempre pubblicato da Mursia e sempre garibaldino, è il diario di bordo del capitano Giuseppe Garibaldi. L'autore è Davide Gnola, 204 pagine, 17 euro. Il diario vero e proprio di Garibaldi è racchiuso in poche pagine fitte di annotazioni tecniche sui viaggi che il generale e il grande navigatore effettuò tra il 1850 e il 1854 in America Latina e in Estremo Oriente. E questa è una testimonianza, per così dire, tecnica delle sue peregrinazioni, di una esperienza unica, quindi, che ha contribuito certamente a fare di Garibaldi il mito che tutti conosciamo. Il libro vero e proprio si sviluppa intorno alle considerazioni dell'autore, che è direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, il quale illustra appunto la carriera marinara del generale che lo portò a girare per mezzo mondo. Una lettura particolare del Risorgimento, che parte proprio dalla tappa dell'unificazione rappresentata dalla conquista del regno borbonico, è quella di Giordano Bruno Guerri, Il sangue del Sud, antistoria del Risorgimento e del brigantaggio, pubblicato da Mondadori, 298 pagine, 20 euro. L'autore, contrariamente a un certo andazzo, precisa di non volere denigrare il Risorgimento, leggo dal suo libro, bensì di metterlo in una luce obiettiva per recuperarlo vero e intero nella coscienza degli italiani di oggi e di domani, continuando a considerarlo, continua, un atto fondamentale, necessario e benigno della storia d'Italia, pur con tutti gli errori e le colpe che accompagnano gli eventi epocali. Perciò, conclude Guerri, conoscere e rivedere il Risorgimento non significherà rimpiangere Radeschi o Francesco II, seconda che il nostalgico si trovi a Milano o a Palermo. E quindi Guerri effettua questa riconsiderazione del Risorgimento considerando il fenomeno del brigantaggio, che per l'autore rappresentò un'autentica forma di guerra civile che si innestò su fenomeni endemici di banditismo e brigantaggio. Questo fenomeno, secondo l'autore, fu anche favorito dall'iniziale severità, anzi rigore, dice Guerri, di cui dettero prova i piemontesi nei confronti dei nuovi territori del regno, nonostante che lo stesso Cavour avesse ammonito che nei confronti di quei territori non si sarebbe dovuto usare la legge marziale. E cita Guerri delle parole proprio di Cavour: niente è stato d'assedio, nessun mezzo da governo assoluto, tutti sono buoni di governare con lo stato d'assedio, diceva Cavour. Io governerò i meridionali con la libertà e mostrerò ciò che possono fare di quel bel paese 10 anni di libertà. In 20 anni saranno le province più ricche d'Italia. No, niente è stato d'assedio, ve lo raccomando. Così Cavour, che purtroppo però non fece in tempo a realizzare questa sua politica. Poi intervennero anche i fallimenti della politica economica del governo, che vengono presi in considerazione anche da Guerri, il quale scrive che l'emergenza richiedeva l'impiego di massicci interventi statali per far fronte alla disoccupazione, all'inflazione e alla miseria accentuata dal passaggio tra vecchio e nuovo. Invece, conclude Guerri, la politica statale rimase ancorata a un liberismo inflessibile e dottrinario che provocò danni ulteriori. Insomma, come vedete, siamo nel pieno di un dibattito che ci accompagna ancora. Tant'è vero che Guerri conclude più avanti come la destra storica, allora al governo, abbia manifestato una inadeguatezza nell'affrontare la questione meridionale. La destra era onesta, puntigliosa, inflessibile, ma incapace di aprirsi a programmi di riforma economica e sociale. E nel libro Guerri parla dei vari episodi di brigantaggio, dei protagonisti, di briganti, brigantesse, e conclude con una prospettiva di dibattito molto attuale legato al federalismo. Scrive infatti Guerri che riparlare del federalismo come ipotesi politica oggi è giusto e necessario, ma non risolve i problemi della storia, che richiede l'analisi degli errori compiuti prima e soprattutto dopo l'unità. Degli errori del passato si può fare tesoro, e questo invita a fare questo libro di Giordano Bruno Guerri. Dallo stesso periodo prende le mosse il libro di Arrigo Petacco, Roma o morte, 1861-1870, la tormentata conquista dell'unità d'Italia, Mondadori, 160 pagine, 19 euro. Si parte anche qui dal 1860, dall'incompiuta unità proclamata nel 1861, fino ad arrivare appunto alla breccia di Porta Pia. Il nuovo regno si trova sprovvisto della guida di Cavour, il grande nocchiero, la cui guida lungimirante ed equilibrata, così la definisce l'autore, sarebbe stata molto utile in quel momento di istituzione del nuovo regno. Cavour in effetti aveva, secondo Petacco, un suo disegno, e quindi si parte proprio dal fallimento di questo disegno, che finisce con la la morte prematura di Cavour, e poi si parla delle difficoltà della Nuova Italia segnata dalla sfortunata campagna della Terza Guerra d'Indipendenza, che si concluse con l'ingresso nel Regno del Veneto solo attraverso i buoni uffici di Napoleone III. La posizione si rovescia nel 1870, quando proprio Napoleone III viene messo fuori gioco dalla sconfitta a Sedan il 2 settembre del 1870. Pochi giorni dopo il governo italiano ne approfitta per schierare 60.000 uomini con i quali attaccherà il Regno Pontificio e effettuerà il 20 settembre la conquista di Porta Pia. Finalmente, conclude il libro di Petacco, anche l'Italia era fatta. Restavano da fare gli italiani. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un romanzo destinato ai lettori più grandicelli, diciamo intorno ai 10-11 anni, che si ispira alla storia recente, in particolare alla Seconda Guerra Mondiale. Il libro si intitola Lo stivale spezzato di Anna Maria Piccione, alle illustrazioni di Tommaso D'Incalce, pubblicato alle Paoline, 198 pagine, 12 euro, e racconta le avventure di due ragazze ambientate nell'Italia spaccata del 1943. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso parliamo di letteratura italiana, anzi dei letterati italiani, colti in una insolita prospettiva nel libro di Eraldo Affinati, Peregrin d'amore, Sotto il cielo degli scrittori d'Italia, pubblicato da Mondadori, 416 pagine, 20 euro. Peregrin d'amore è una immagine di Dante Alighieri che lo scrittore qui adotta per dare il senso di un pellegrinaggio insolito e affascinante nella nostra letteratura. Infatti Affinati rivisita i grandi protagonisti di questo lungo trascorso letterario, da San Francesco fino a Pasolini, ambientandoli in squarci talora insoliti del paesaggio italiano. Un paesaggio visto però con gli occhi di oggi, e quindi spesso problematico, rovinato, contraddittorio e spesso anche dissonante rispetto alla grandezza dello scrittore che lo ha descritto o nel quale quello scrittore ha vissuto. Per esempio, tipico il caso di Galileo Galilei. Lei Affinati va alla Camera dei Deputati, in un palazzo della Camera infatti ci sono i locali nei quali si svolse il processo al grande scienziato, ma questa visita è assai poco solenne perché lo scrittore viene accolto da un commesso piuttosto sguaiato che lo indirizza in malo modo alle stanze dove appunto avvenne la tragedia di Galilei. Oppure ci sono le pagine su Milano che introducono il capitolo dedicato a Carlo Porta, e queste pagine su Milano sono illustrate da una vista della città dall'alto di una gru, una prospettiva insolita che permette ad Affinati di vedere uno schizzo confuso di cortili, biancherie, parcheggi, passioni, amori, amarezze, illuminazioni, una vitalità tumefatta. Ma sentiamo dall'autore come ha vissuto questo suo viaggio. Buongiorno a Eraldo Affinati. Buongiorno a lei. Il suo libro, Peregrin d'amore, è più un breviario per riaccostarci agli autori della letteratura italiana o per rileggere l'Italia? Beh, mi piacerebbe fosse entrambe le cose, sia un breviario diciamo della nostra grande letteratura, però anche un modo per far capire che in fondo la vera patria nostra italiana è linguistica, prima ancora che politica. Infatti sin dal 1200 in fondo cominciò a formarsi la nostra lingua, infatti il mio libro parte da Castel del Monte e arriva fino a Caprera sulla tomba di Garibaldi. Ecco, come mai questa conclusione con Mazzini e Garibaldi, cioè con due non letterati? Ecco, proprio per questo che dicevo prima, cioè l'idea che questa nostra Italia in fondo prima ancora con entità politica è stata un'entità linguistica, letteraria, poi però nel momento in cui ci siamo uniti Mazzini e Garibaldi hanno in qualche modo reso possibile anche una realizzazione proprio pratica, concreta. Senta, nel libro colpisce questo contrasto tra la crudezza, la contraddittorietà, spesso l'autentico squallore di molti paesaggi d'Italia, e con l'arte degli scrittori che in quel paesaggio avevano lavorato. Come spiega questo contrasto così forte? Ma è vero che per esempio quando sono andato nella casa di Leopardi a Napoli, chi abitava all'interno di quello stabile e nemmeno sapeva che appunto il grande scrittore di Recanati era morto lì, insomma aveva vissuto gli ultimi giorni, oppure anche i luoghi di Campanella o di Bruno nel sud Italia ho trovato spesso questo scarto lancinante, diciamo, fra la nostra grande letteratura e appunto le realtà che vedevo. Però è stato in fondo anche questo il mio obiettivo, quello di misurare la forza della nostra letteratura e la sua capacità di continuare a parlarci ancora oggi, a interrogarci, e per cui ho messo in conto diciamo questo scarto che in qualche modo andavo cercando dentro me stesso. Poi ci sono anche degli scarti sorprendentemente positivi o positivamente sorprendenti, per esempio Orlando che arriva a Lampedusa e fa pace con i mori ai quali dà da mangiare. Questo è un auspicio, un miraggio, una realtà secondo lei questa pagina? Ma vorrei fosse una realtà, nel senso che oggi se Orlando, antico paladino cristiano, mangiasse a tavola con i mori, gli antichi avversari di un tempo, recitando insieme a loro il Padre Nostro, vorrebbe dire che insomma anche la letteratura in qualche modo può servire, ecco, a qualcosa. Io in quel caso ho inventato questo personaggio, così come ho inventato Clorinda a Gerusalemme, che Tasso non, ovviamente non vide mai, perché credo nella potenza della letteratura, capace di creare nei mondi interiori del lettore nuove metamorfosi, nuove forme, diciamo. Ecco, sono andato nei luoghi della letteratura italiana proprio portandomi dietro questa fede nella letteratura. E spesso ha anche incontrato qualche delusione, per esempio quella che trova da Citrezza sulle tracce di Giovanni Verga. Beh sì, ho trovato spesso il turismo, ecco, come appunto da Citrezza, però mi sono riconsolato nel momento in cui sono andato a Vizzini, che appunto è la casa natale, diciamo, di Verga, i suoi luoghi più veri. Ecco, lì ho ritrovato una densità verghiana che magari da Citrezza avevo un pochino smarrito. Ha ricostruito molto bene il linguaggio anche, ma soprattutto il ragionamento di Niccolò Machiavelli, e le sue osservazioni sulla politica mi sembrano molto attuali, laddove dice che il politico in fondo non può che fare il male. Sì, in qualche modo ho cercato anche in quel capitolo di come dire, realizzare anche una simulazione linguistica, perché appunto, come ha visto, è un capitolo costruito proprio usando la lingua del Machiavelli, così come ho fatto anche con quella del Belli, appunto con il romanesco del Belli. E nel caso di Machiavelli ho sentito, devo dire francamente, tutta l'attualità, ecco, di questo nostro grande autore, che certamente riuscì a conquistare un disincanto, ecco, nel giudizio sulla politica, che forse noi ancora non abbiamo. E un qualche spunto consolatorio da questo suo viaggio l'ha tratto? Ma sì, credo che per esempio i giovani, i ragazzi possano oggi ancora abbeverarsi a queste nostre fonti. Io sono insegnante, insegno ragazzi adolescenti e ho voluto anche scrivere un libro per far uscire la letteratura dalle bacheche, insomma dalla biblioteca, dall'accademia, cercando di parlare dei nostri autori come se fossero carne viva, ecco, non soltanto pagine scritte. Ne ha portato con sé qualcuno di questi ragazzi in qualche tappa? Beh, qualcuno sì, nel senso, per esempio, il capitolo su Marco Polo l'ho ambientato nella città di Ragazzi, dove alcuni ragazzi afghani mi chiesero perché la villetta dove loro abitavano era intitolata a questo personaggio per loro misterioso, Marco Polo. Allora ho raccontato a loro chi era Marco Polo, il quale aveva compiuto in fondo lo stesso percorso all'incontrario che loro, questi afghani, hanno compiuto per venire in Italia. Quindi in quel caso ho raccontato, parlando del Milione, anche la città di Ragazzi, questa comunità educativa dove io insegno. Bene, grazie ad Eraldo Affinati, autore di Peregrin d'amore. Buona domenica. A voi, grazie. E con questo ringrazio Margherita Aina in redazione, Roberto Scaltritti e Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buona domenica e appuntamento alla settimana prossima.